Friuli nel mondo, 198esima trasmissione dedicata agli immigrati. Proseguiamo oggi, cari amici radioascoltatori, nella presentazione di recenti brani di musica leggera di autori friulani. Sono canzoni che si accostano ai caratteri più tipici della tradizione melodica del Friuli. Saranno eseguite da un gruppo di cantanti della nostra terra, accompagnati dall'orchestra di Virginio Feruglio. Ascoltiamo per primo Italo Nicoletti in Speranze d'amor, di Candotti Visentini. Nostra di minuie, se ti hai fermate, che altre sere, e sta d'inci, che via le stelle, che mi ha se spalme, ti hai fermate, par domandati, tu mi hai detto che non so i zovi. Con cor di sorelli tu mi hai fatto diventare. Ecco mobi e le frutte, con che torri queste sclete, la sfabbiati al me cu, la speranza dall'amore. Non so i danzovi, ma non c'è peggio, e cur le simbri calci l'amore. Io non puoi dismente ami che risola sui cermelli, tu si che via il voli neri che mi ha fatto innamorare. Ecco mobi e le frutte, con che torri queste sclete, va sfatiar di alme cu, la speranza dall'amore. Non so i danzori, ma non c'è peggio, e cur le simbri calci l'amore. Io non posso dismentirmi, che rizzola sul cermello, non si che i voli neri che mi ha fatto innamorare. La la la, la la la, la la la, la la la, la. Potrete ora ascoltare Parole nel cielo, di Angelo Peloi. Canta Annalisa Viel. Limpido, in te sento magnifico. la volta di Adriano Degano, che vi canterà Maurizia di Peloi Feruglio. Specchiarmi negli occhi tuoi blu, giocar lieto a far gioielli con l'oro dei tuoi capelli. Maurizia, non ti rivedrò. Maurizia, non ti scorderò, le strade per noi si dividono, ma resta nel cuore il ricordo con un motivo interpretato da Teresa Scala, Amore credimi, di Candotti. Stelle sono nel firmamento, quanti cuori ammirano questo incanto, quanti sogni sono nel mio cuore, parlano solo di te. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo.